Se ci credi, libera la mente tua. Se ci provi, uscirai da questa terra. L'uomo vero riesce con mano a toccare il cielo. L'uomo vero vive esperienze, vive l'universo nello spazio, per me il tempo. Io lo sento, vive e gioca insieme a te. La mia vita è una voce dentro al mondo. Vive e vita, non l'accetto, so che c'è, so che c'è. Resti solo se non vivi e ti diverti. Se il mondo è vuoto, riempilo con fantasia. L'uomo vero ha i colori di questa energia. L'uomo vero colora i mondi, vive l'universo nello spazio, ferma il tempo. Io lo sento, vive e gioca insieme a te. La mia vita è una voce dentro il mondo. Divertita, non l'accetto, so che c'è, so che c'è. L'universo che vive i sogni, le emozioni. L'universo dentro te. Sono sogni per vivere seguendo il tempo. Di quel sogno vive in te. Dentro al mondo divertita, non l'accetto, so che c'è.